Stiamo seduti o in piedi dove ci troviamo e semplicemente ci prepariamo ad allungare ed estendere le braccia verso l'alto. Quindi, dalla posizione passiva, seduta o in piedi, cominciamo ad estendere le braccia e vuol dire fino alle mani e vuol dire fino alle dita, ciascun dito. E poi alzare le braccia così estese, con i palmi che si affacciano l'uno all'altro, verso l'alto. E adesso inizia. Il bello non è solo alzarle e riabbassarle, è stare e respirare, diciamo 5 respiri tranquilli. 1, 2, 3. 4, 5. Statene ancora uno di respiro, che fa 6. E poi riabbassate le braccia. Potete socchiudere gli occhi un istante per prepararvi a fare le vostre considerazioni, le vostre sensazioni. Per esempio, sentite più calore di prima in qualche punto del corpo? Sentite meglio distribuito il peso del vostro corpo, la parte alta, la parte bassa? Insomma, sentite più energia distribuita in tutto il corpo? Magari avete anche sudato.